profondo sud, misceni nella contrada, tra fango e sole vedo blocchi per la strada. Nella mia terra si comanda se si abusa, storica e la sudditanza all'apparato militare usa. Se c'è di sangue per un'altra stella, con la stessa arroganza di Coms e Sigonella. Prima le installazioni dei missili Cruz, ora le radiazioni delle antenne MUOS. Poi ci offrite voi un presente provvisorio, noi salvaguardiamo passato e futuro di ogni territorio. Come in presidio, resistenza permanente, qua la gente non si spende, difende l'ambiente. Ma quali antenne, denunce, fogli di via, la gente carica più delle cariche di polizia. La forza nasce dalla terra che ci dà coraggio, come mamma e figlia stretti in un abbraccio. Allora, iniziamo ora una nuova trasmissione che vi accompagnerà tutti sabato pomeriggio sulle frequenze di Radio Default. Questa è Ops Connecting Fights, almeno questo è il nome provvisorio che abbiamo dato a questa trasmissione, in attesa di correggere il nostro inglese decisamente maccheronico, ma diciamo è un nome che vuole in qualche modo sottolineare l'intenzione di, sia di Ops che di questa trasmissione, l'approccio quello di voler, cioè l'approccio che abbiamo iniziato a mettere in campo già dalle occupazioni di alcuni mesi fa del teatro, ma anche con le iniziative che abbiamo fatto come quella di sabato scorso, e quello appunto di voler dare spazio attraverso la radio in questo caso, ma alle lotte, alle tante lotte, diverse lotte che attraversano il nostro territorio, cercando appunto, connettendole tra loro e cercando di trovare quelli che sono appunto i legami e le connessioni. Oggi iniziamo con diciamo raccontando due lotte importanti, una che ci riguarda molto da vicino, che è quella del no inceneritore, e la discussione su quello diciamo occuperà tutta la seconda parte della trasmissione, proprio in merito alla decisione presa, uscita ieri rispetto alla decisione del TAR e quindi al rischio che il cantiere inizi, il cantiere per l'inceneritore inizi in qualsiasi momento. Ma prima di tutto parleremo di un'altra lotta, sempre un'altra vertenza molto importante, che è quella della non MUOS in Sicilia. Ne parleremo oggi proprio perché oggi è una data importante per quella vertenza, visto che c'è un grande corteo che inizierà a breve e che con il quale ci collegheremo tra pochi minuti, visto che abbiamo appunto delle corrispondenze direttamente dal corteo con due un compagno e una compagna appunto del comitato del coordinamento non MUOS. Quindi questa è l'intenzione di questo programma, con, diciamo, dare spazio alle lotte territoriali, alle vertenze che attraversano questo tutto il nostro il territorio nazionale e appunto cercare questi legami e questi nessi tra lotte che apparentemente sembrano molto lontane. E che cos'è? Innanzitutto, prima di chiamare appunto e di collegarci col corteo, brevemente che cos'è, diciamo, questa per quale motivo oggi c'è questa manifestazione, che cosa accade in quel di Sicilia? Allora, il MUOS è un enorme impianto radar che vorrebbero costruire appunto a Niscemi, in una base che una base militare, una delle basi militari più grandi d'Italia. Si tratta di oltre un milione di metri quadrati, una base militare che appartiene in tutto e per tutto agli Stati Uniti d'America, vicinissima ad un'altra base americana che è quella di Sigonella. Che cosa serve questo MUOS? Semplicemente a mettere in collegamento a tutte le strutture militari americane e quindi, diciamo, la base di Niscemi sarebbe collegata con una base con un'altra base che sta in via di costruzione in Australia, un'altra in Virginia e una quarta nelle Hawaii. Qualcosa che avrà delle enormi ripercussioni non solo sull'ambiente circostante. Tra l'altro, la base di Niscemi si trova in una zona di interesse comunitario per il cosiddetto Sughereta, proprio per la specificità ambientale di quel territorio. Quindi danni ambientali, danni alla salute enormi, e quindi da lì tutta una battaglia che da anni il coordinamento non MUOS porta avanti, collegandosi però anche facendo anche dei discorsi che vanno a mettere in discussione quella che è un po' il ruolo che qualcuno ha assegnato alla Sicilia, senza però interrogare la popolazione siciliana, un ruolo strategico dal punto di vista militare di quest'isola in qualche modo, perché Sigonella prima e adesso Niscemi appunto sono in qualche modo tra le basi più importanti appunto degli Stati Uniti d'America nel Mediterraneo meridionale, quindi basi strategicamente molto importanti anche per il controllo del Medio Oriente appunto, e soprattutto cosa appunto che il Comitato Non MUOS sottolinea in continuazione, soprattutto appunto Niscemi e Sigonella stanno diventando, e a questo serviranno tra l'altro proprio questi quattro radar enormi che vorrebbero costruire gli americani, stanno diventando e diventeranno appunto le capitali mondiali del controllo dei cosiddetti droni, quindi di quegli aerei senza pilota per cui tantissime multinazionali della guerra stanno investendo e che gli americani utilizzano appunto in continuazione nei teatri medio orientali, hanno utilizzato e continueranno ad utilizzare appunto nei teatri medio orientali, hanno utilizzato anche in Afghanistan, quindi sistemi altamente tecnologici che verranno controllati dalla base militare appunto di Niscemi e di Sigonella. Quindi, diciamo, il discorso che porta avanti il Comitato Non MUOS è sia sull'impatto ambientale che sull'impatto sulla salute dei cittadini, ma fa anche un discorso che va oltre questo e va a parlare proprio di della Sicilia come di un territorio inserito suo malgrado in uno scenario di guerra permanente appunto come voluto dagli Stati Uniti. Tra qualche minuto sentiremo appunto avremo un collegamento con il Non MUOS. Intanto andiamo un po' di musica e poi vi racconto ancora qualcos'altro appunto sulle varie tappe di questa vertenza siciliana. Yeah. Prima di collegarci quindi con il corteo, vediamo un attimo. Innanzitutto, il corteo di oggi è stato costruito dai Non Muos, ma si inserisce in un mese di mobilitazione importante, appunto, di altre vertenze ambientali che insieme ai Non Muos hanno lanciato un vero e proprio mese di lotta sui loro territori. Si è iniziato 2 settimane fa con il corteo contro il ponte di Messina, passando poi per il corteo che ha avuto un enorme successo in Val di Susa della Notav, per arrivare oggi al corteo appunto siciliano del coordinamento Non Muos. Quindi un mese di lotta di questi comitati, di questi movimenti ambientali che diciamo sono riusciti a costruire insieme a lanciare insieme un appello molto importante sottolineando non solo la vitalità delle vertenze ambientali, ma soprattutto evidenziando come appunto non si tratti esclusivamente di un problema legato al proprio territorio, ma tanto la TAV come la costruzione del ponte, come la costruzione di queste di questo sistema radar a Niscemi va oltre lo stesso territorio, perché parla in qualche modo di spreco di risorse pubbliche, di risorse non destinate ai bisogni reali delle popolazioni che abitano quei territori, ma soltanto a garantire gli interessi di qualcuno. Allora andiamo a leggere una parte dell'appello del Comitato Non Muos per la manifestazione di oggi. E, la manifestazione, tra l'altro, c'è da dire che si inserisce, cioè, ieri Crocetta, quindi governatore della regione siciliana, ha diciamo concluso l'iter di sospensione definitiva dei lavori, o meglio ha tolto le autorizzazioni alla costruzione di questo sistema di telecomunicazione. Vedremo poi, anche sentendo il collegamento durante la corrispondenza col corteo, di capire meglio quali sono state le diverse tappe. Comunque si è pervenuti finalmente al blocco dei lavori, come dice appunto anche l'appello, ma l'appello sottolinea che non è non è merito appunto delle istituzioni regionali, ma questo è stato possibile, lo evidenzia a chiare lettere, solo perché, leggo testualmente, centinaia di donne, giovani e attivisti Non Muos hanno messo in atto per più di 3 mesi la revoca dal basso, impedendo con i propri corpi che si portasse a conclusione il progetto di guerra globale e di devastazione del territorio, ignorando colpevolmente i gravi danni arrecati alla salute e all'ambiente. L'azione concreta, continua l'appello, e diretta di blocco dei lavori da parte dei comitati resterà ancora la pratica fondamentale di opposizione al MUOS. Quindi ribadisce questo appello come i blocchi, i presidi permanenti che ci sono stati, e parleremo dopo anche delle cariche che hanno subito, sono la principale forma di lotta, e solo grazie a quello appunto si è potuto obbligare la politica regionale, mettendola seriamente in difficoltà, appunto, a prima sospendere a gennaio in via cautelativa, in via di autotutela, appunto l'autorizzazione, l'avvio dei cantieri, fino ad arrivare poi all'inizio della revoca dell'autorizzazione, conclusasi appunto ieri. L'appello continua sottolineando appunto quello che dicevo prima in merito all'inserimento della Sicilia appunto in una strategia di guerra globale in qualche modo. Infatti dice: ribadiamo ancora una volta che il MUOS è uno degli strumenti chiave per assicurare il funzionamento dei sistemi di guerra e di distruzione di massa ad uso esclusivo delle forze armate USA. Esso si inquadra nel vasto programma di militarizzazione del territorio siciliano, che vede in particolare la trasformazione della stazione di Sigonella in capitale mondiale dei droni, i famigerati velivoli senza pilota che USA, NATO e forze armate italiane utilizzano quotidianamente negli scenari di guerra africani e mediorientali. Quindi sottolinea appunto non solo la nocività, appunto questo appello per la salute degli abitanti di quei territori, ma anche la nocività per le popolazioni medio orientali e africane, visto che appunto è quello l'obiettivo principale di questa base. Cosa chiede allora il coordinamento regionale dei comitati non MUOS in questo appello? Vediamo i punti finali. Vogliamo che si revochi immediatamente l'installazione del MUOS e che si smantellino le 46 antenne NRTF. Ricordiamo infatti che quel territorio non si vuole solo costruire questo MUOS, e poi vedremo bene nello specifico cosa comporta, i soldi che vorrebbero essere investiti lì, ma ci sono già 41 antenne, se non sbaglio, che sono state iniziate a costruire negli anni 90, appunto antenne servono alla comunicazione di tutti le basi militari americane e anche di tutti i mezzi americani, dai sottomarini nucleari fino ai caccia, bombardieri, fino a qualsiasi mezzo americano in qualsiasi teatro di guerra. L'altro punto e l'altra richiesta del comitato non MUOS è la smilitarizzazione. Dice: vogliamo la smilitarizzazione della base americana di Sigonella, da riconvertire in aeroporto civile internazionale. Vogliamo che il governo, che taglia le spese sociali aumentando ogni genere di tasse e imposte per salvare il capitale finanziario e il debito delle banche, tagli invece le spese militari. Vogliamo che la Sicilia sia una culla di pace al centro di un Mediterraneo, mare di incontro, di convivenza e di cooperazione tra i popoli. Quindi sono richieste sicuramente avanzatissime che inseriscono questo movimento sicuramente al di fuori di quelli che i critici dei movimenti del no molte volte dicono. Sicuramente non è un movimento che lotta soltanto perché vogliono costruire uno scempio del genere nel proprio backyard, nel proprio giardino, ma guarda anche oltre, guarda appunto alla crisi, parla di debito da non pagare, parla di necessità di tagliare le spese militari, parla di guerra globale, parla e capisce il ruolo che vuole essere dato alla Sicilia, o che meglio è già stato affidato alla Sicilia ormai dal secondo dopoguerra di fatto, appunto di territorio strategico negli scenari globali e nelle guerre permanenti degli Stati Uniti. But now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. Ci stiamo per mettere in contatto con Edoardo del coordinamento Non Mus di Niscemi. Proveremo a chiamarlo adesso telefonicamente, quindi un po' di pazienza e avremo questa corrispondenza appunto dal corteo. Intanto ricordo appunto che ieri il governatore della Sicilia Crocetta, diciamo, in una conferenza stampa a cui era presente anche il nuovo presidente del Senato Pietro Grasso, ha annunciato lo stop definitivo dei lavori. Quindi partiremo da questo nella discussione, nelle domande che faremo a Edoardo, per capire appunto come intendono continuare nella lotta appunto i vari comitati Non Mus siciliani, che sicuramente non si arrenderanno e non smetteranno di lottare, visto che comunque già a gennaio, ricordiamo, c'era stata una sospensione in autotutela da parte di Crocetta dei lavori, e nonostante questo i lavori da parte di delle imprese subappaltatrici erano comunque continuati. E in quei giorni proprio nonostante questa sospensione, i vari comitati avevano deciso di presidiare l'entrata della base e sono stati proprio brutalmente caricati dalla polizia. Se non sbaglio, intorno alla sospensione in autotutela era del 10 gennaio, le cariche ci sono state l'11 gennaio. Tra l'altro cariche che hanno una responsabilità politica ben chiara, visto che la cancellieri alcuni giorni prima, sapendo che appunto la regione Crocetta, pressato dai comitati, stava per sospendere cautelativamente questi lavori, il ministro Cancellieri il 3 gennaio, in una sua dichiarazione gravissima, aveva definito la zona di Niscemi di interesse strategico nazionale addirittura, e quindi cercando di applicare la stessa formula già applicata in Val di Susa, e cosa che ha portato appunto alla militarizzazione anche di Niscemi, e cosa che ha dato la possibilità appunto alle forze dell'ordine di caricare, in qualche modo di sentirsi autorizzati a caricare brutalmente appunto quel presidio, che altro non voleva fare che controllare l'effettiva applicazione di quella sospensione dei lavori richiesta dalla regione. Sì. Sì, pronto Edoardo, ci senti? Sì, mi senti? Allora siamo in diretta su Radio Default, Edoardo, ciao. Sì, grazie, grazie. Sì, ci senti? Purtroppo siamo in diretta via Skype, quindi non so se... Allora, dov'è Simone che deve far mettere la tira ormai? Allora, pronto? Allora, abbiamo provato a sentire Edoardo, abbiamo avuto alcuni problemi con la chiamata, appunto. Adesso riproveremo a chiamarlo. Siamo appunto, lui comunque il corteo sta per iniziare lì a Niscemi, quindi sicuramente c'era un po' di confusione. Adesso stiamo capendo. È la prima diretta via Skype di Radio Default, quindi abbiate pazienza. Sì, pronto Edoardo, ci senti? Sì, ci senti tu? Vabbè, ti richiamiamo tra un po' allora, se non puoi adesso. Ok. Ok. Ti sento male. Purtroppo ti sento male, non so se ti puoi mettere... Ok, vabbè, no, niente. Allora, raccontaci un po' di questo corteo. Abbiamo fatto un po'... Sì, allora ci provo. Allora, raccontaci un po' di questo corteo. Abbiamo fatto brevemente una panoramica su quella che è la... Allora, il corteo sarà composto principalmente dagli attivisti che sono stati quelli che hanno tenuto vivo il presidio, dal coordinamento dei comitati, da tutte quelle realtà che si impegnano in questa lotta. E adesso si parte, quindi, curiosamente, si va verso la base, manifesteremo la nostra indignazione. Saremo tutti uniti e compatti e si partirà e si ritornerà insieme. Una valle c'è al nord e una valle c'è al sud. Questo è quello che forse ci accomuna, ma sicuramente l'oggetto della lotta è diverso. Certo. Però c'è la stessa voglia di continuare a far crescere questo movimento e non avere paura della crescita, perché solo così con la lotta dal basso veramente si possono vincere e si possono risolvere le problematiche che oggi incombono la nostra comunità. Senti, una cosa, prima abbiamo parlato proprio dei vostri presidi e dei blocchi che avete fatto. Ieri Crocetta ha detto appunto che avrebbe bloccato, se non sbaglio, correggimi tu, i lavori, e quindi è arrivato la sospensione definitiva, pare, dei lavori. I presidi rimarranno, i blocchi rimarranno, continuerete a vigilare? Insomma, come vi ponete certo, rispetto a quello? No, quello che ha detto Crocetta, sinceramente noi non lo condividiamo pienamente, perché è semplicemente un'espressione politica che si manifesta ogni volta noi organizziamo una manifestazione. È una prassi. E quindi non si demorde per niente, dal 30 marzo in poi dal 30 marzo in poi si andrà a crescere il movimento, perché si dimetteranno tutte quelle volontà che per lo terreno qui, al campeggio, per una rete nazionale di movimento. E questa può essere una battaglia molto condivisa e comune, perché non tocca solo gli scemi, perché tocca tutto il bacino del Mediterraneo, perché influenza militarmente e strategicamente influenzata questa zona, quindi tutto il Medio Oriente e l'Europa, da questi strumenti. Questi strumenti sono lo strumento di coercizione del potere del capitalismo, quindi la lotta non è solo degli scemi, non è solo dell'Italia, ma è di tutto questa comprensione dei territori. Sì, prima parlavamo proprio di quello, e tra l'altro anche della vostra capacità di mettervi proprio in relazione con altri movimenti. Questo corteo appunto ha un collegamento diretto con quello della settimana scorsa su in Val di Susa, come dicevi te, e anche di quello di 2 settimane fa a Messina contro il ponte. Come avete costruito questo appello comune, questa mobilitazione comune, che penso sia il dato più importante, no? Sì, scusami se interrompo, vai, vai, veloce, però vai, adesso vai. Mi sa che parte il concerto, il corteo. Allora, questa rete, questo appello tripartito è stato creato con una conoscenza diretta, quindi condividendo nel posto in cui si erano ospitate anche le battaglie, le lotte che si portavano avanti in quel momento. Quindi con la conoscenza, con l'ampliamento delle conoscenze e del tour che è stato fatto sia al nord che al sud, questa è stata la possibilità di far gonfiare un po' l'azione diretta che viene fatta qui giornalmente, adesso con fatica perché c'è stato di mezzo la manifestazione, ma che tutto riprenderà regolarmente, anzi sarà ancora più diretto lo scontro, perché abbiamo subito manganellato, abbiamo subito repressione, ci hanno toccato le donne, queste siriane non lo accetteranno. Ovviamente non sono di questa mentalità, ma questo è quello che inizia a nascere per la persona. E ovviamente questo dà fastidio, noi vogliamo riapproparci del territorio e far diventare l'isola e gli scemi un paese di pace, che si crede una portiere di guerra. Va bene, guarda, so che vai, che sei di fretta perché sta per iniziare il corteo, quindi innanzitutto buon corteo. Gli attivisti oggi veramente ci sono i coordinamenti e insieme si sta andando verso la base, dove saranno fatti anche delle scritte lungo il percorso, perché ovviamente gli onde elettromagnetiche hanno sciupato un pochettino le mentalità di queste persone, e noi saremo quelli che correranno questo paese oggi e nei prossimi mesi di dura lotta, veramente, oggi di colore, nei prossimi giorni di dura lotta. Allora, ti ringraziamo per questa corrispondenza, naturalmente da qui, dai Castelli Romani e da Radio Default, la massima solidarietà. Continueremo a seguire il corteo e speriamo di sentirci presto, magari ci riaggiorniamo nei prossimi giorni per avere ulteriori informazioni. Noi comunque qui siamo in diretta su Radio Default e continuiamo a parlare della vostra lotta e anche dei vostri metodi di lotta, visto che ci interessano, rispetto appunto alla lotta che questo territorio porta avanti rispetto all'inceneritore. Quindi grazie, buon corteo e niente. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Compagni. Buona giornata. Ciao, buon cortello. Ciao, grazie. wherever you go. You'll never live to see a happy day, not unless you learn to hold on to someone, baby. 'Cause loneliness will drive you crazy. Hold on to someone. Rimandiamo una come diceva Edoardo prima nella corrispondenza, appunto anche Niscemi è come la Val di Susa, quindi mandiamo una traccia di un gruppo siciliano che abbiamo già mandato prima ma non so se sia ascoltata, sono i Gente Strana Posse e la canzone si chiama Dalla Valle all'Isola. Per difendere i nostri diritti, non solo la nostra terra. I nostri monti ispirano la libertà, dai monti di Montecitorio ispirano i sacrifici. Spira la crisi, spira questo mondo. Noi siamo un vero antidoto a tutto questo. Io sono quello che non canta ma sbraita. Difendo la mia terra come chi difende Baita. Clarea, mos tua vita mea. Se la legge distrugge c'è una valle che crea. Ehi, un'odissea a difesa di un'idea. Siamo l'onda dal basso che spinge l'alta marea. E se la strada si presenta piena di ostacoli, nessuno che ci rappresenta. Non abbiamo debiti con questi ipocriti dell'alta velocità. In bilico dall'alto di un traliccio come Luca Ba. Sopprimono i collegamenti con il meridione. Puntano agli affari sporchi sulla Torino Lione. E se Caselli fa i processi nell'aula bunker, la controinchiesta dell'operazione Hunter vede divise che si infamano di atrocità, violenze di ogni tipo a limitare libertà su di una comunità nata e cresciuta insieme. La valle che resiste e moltiplicherà il suo seme. Il contadino che coltiva la sua terra assapora l'essenza, innaffia la coscienza e si ritrova col passamontagna a respirar veleno, ma senza paura come a bussoleno. Filo spinato e recinzioni, speculazioni, ma nessuno ha reso divisioni fra noi. Da Ragusa alla Val di Susa, senza catene, si parte e si torna insieme. Dalla valle all'isola, nella contrada, tra fango e sole vedo blocchi per la strada. Nella mia terra si comanda se si abusa, storica e la sudditanza all'apparato militare usa. Strisce di sangue per un'altra stella, con la stessa arroganza di Comus e Sigonella. Prima le installazioni dei missili Cruz, ora le radiazioni delle antenne Muos. Poi ci offrite voi un presente provvisorio, noi salvaguardiamo passato e futuro di ogni territorio. Come in presidio, resistenza permanente, qua la gente non si svende, difende l'ambiente. Ma quali antenne, denunce, fogli di via, la gente carica più delle cariche di polizia. La forza nasce dalla terra che ci dà coraggio, come mamma e figlia stretti in un abbraccio. Dalla valle all'isola, per tutta la penisola. Yeah, I'm going back. Dalla valle all'isola, per tutta la penisola. Yeah, I'm going back. Please. Luca. Quindi, come ci diceva Edoardo, appunto, non si fidano giustamente delle dichiarazioni di Crocetta. Effettivamente, anche dopo la prima sospensiva di gennaio, Crocetta si è trovato in enorme difficoltà, appunto, e sicuramente però la costretto sicuramente dalla mobilitazione popolare non a bloccare almeno temporaneamente i lavori, e poi costretto dalla dalla capacità del Nomus di non fermarsi, proprio a sospenderli e a fermarli definitivamente. Giustamente non si fidano, perché, come dicevo prima, appunto, dopo la prima sospensiva temporanea di gennaio, i lavori di fatto sono continuati, anche se poi l'ambasciata americana e il console americano dicevano che non era vero. Sicuramente quello dei presidi e della capacità del Nomos di incidere sulla politica e sulle istituzioni e di non farsi strumentalizzare da questo è un tema molto importante, che sicuramente riaffronteremo meglio anche dopo, quando parleremo del non inceneritore e quindi di dei nuovi aggiornamenti che ci sono rispetto al cantiere, come dicevo prima, e soprattutto credo della necessità, appunto, anche qui di riattivare un processo di partecipazione diretta e dal basso, come diceva Edoardo e come stanno dimostrando appunto i non-MUOS. Quindi, visto che appunto sabato prossimo ci sarà questo corteo ad Albano, forse sarebbe ora di iniziare a discutere seriamente di ritornare in discarica con un presidio permanente, di ritornare in discarica per riattivare una mobilitazione popolare che diciamocelo, un po' scemata negli ultimi tempi rispetto alla lotta contro l'inceneritore, consapevoli del fatto che politica, istituzioni, magistratura, interessi forti, poteri forti, appunto, che vogliono distruggere questo territorio, possono essere fermati solo in quel modo e non soltanto con i tanti, pur se importanti, a volte ricorsi che sono stati fatti. Quindi la mobilitazione popolare, come ci insegna la Niscemi e il Nomuos, è fondamentale. Taught you well. Everything I know, you've even surpassed my skill. But why is it so important? Years ago, your father was a royal guard, the best that there was. He won many royal merits. But still, during a special contest, he was beaten by 5 experts. He was disgraced. So was our clan. Forgotten that day, though, and you're his only hope to redeem the clan, retrieve our honor. Of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way. Allora, ritorniamo in diretta con sul Radio Default. Questa è Ops Connecting Fights. Stiamo oggi parlando della lotta contro il MUOS in Sicilia. Parliamo, appunto, come abbiamo fatto fino ad ora, di una lotta importante, di una lotta che si batte contro la militarizzazione di un territorio, contro l'inserimento di un territorio all'interno di dinamiche globali, e contro la speculazione, contro la messa a profitto di un territorio, appunto. Si parla sicuramente di enormi interessi, e tant'è che il costo complessivo del MUOS, quindi di queste tre antenne che hanno scemi, e poi di altrettante antenne in altre basi militari americane, una in Virginia, una nelle Hawaii e una in Australia, il costo complessivo, secondo la difesa americana, era di 3,26 miliardi di dollari, ma la Corte dei Conti degli Stati Uniti l'anno scorso ha avuto da ridire su questa cifra che sembrava definitiva, e spulciando un po' le carte ha stimato un costo finale non inferiore ai 6 miliardi 830 milioni di dollari. Quindi in un periodo di crisi economica così acuta, appunto, ancora una volta gli Stati Uniti, come a tutti gli altri stati, decidono di investire, appunto, nel cosiddetto complesso industriale militare. E chi va a guadagnare da questo enorme investimento da parte degli Stati Uniti? In qualche modo i soliti noti. Allora, c'è sicuramente, tra le multinazionali della guerra più coinvolte in questo progetto, troviamo la Lockheed Martin, che in Italia purtroppo conosciamo bene perché è una multinazionale che costruisce i famosi e famigerati F-35 che anche l'Italia si appresta a comprare. Poi troviamo la Boeing e ancora la filiale texana della svedese Ericsson. Per quanto riguarda invece gli interessi e gli affari italiani, anche l'Italia, le imprese italiane hanno la loro parte. In realtà, come sottolinea Antonio Mazzeo, che segue molto da vicino, appunto, la lotta del non MUOS, le imprese italiane prenderanno solo briciole rispetto, appunto, all'enorme massa economica e agli enormi capitali che verranno mossi, e le briciole verranno prese in particolar modo da Finmeccanica, che con la sua Selex avrà, appunto, un collegamento diretto con, leggo testualmente, la Northrop Grumman Corporation, e per realizzare in realtà un sistema che si troverà non a Niscemi ma a Sigonella, quindi una base adiacente, che è l'AGS, un sistema di controllo della NATO, che secondo alcuni è il più costoso sistema di controllo della storia dell'Alleanza Atlantica. And still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. Take a look at some of the old enlightened statues. You see Buddha, you see laughing Buddha, you see the crying Buddha, you see the sleeping Buddha, you see the tall Buddha, you see the Buddha, you see the female Buddha, you see all these different variations. These are all different kind of personalities or different kind of ways that they reach the light. You could laugh yourself into the light. You got the drunken Buddha, I mean the drunk monk, you know what I mean? That's why you can drink yourself into the light. But the side effects of whatever you're doing, you know what I mean, is going to determine how long you're going to enjoy your enlightenment. Thank you. sconosciuti problemi ed in particolare a quelli che mascherano i propri interessi personali dietro quelli comuni, indipendentemente dal fatto che siedano in Parlamento per volontà di un elettorato o semplicemente perché qualcuno più in alto di loro gli ha dato un gran calcio in culo. E cambio di voce ai microfoni di Radio Default, siamo sempre qua su Ops Connecting Fights, la trasmissione di aggiornamento sulle vertenze del lavoro, le vertenze ambientali che attraversano lo stivale in questo periodo. E siccome ricordiamo che ora non siamo collegati su Skype, appena rimandiamo lo stacco musicale ci ricollegheremo, ma il nostro contatto Skype è radio.default. Aggiungeteci ai vostri contatti per poter intervenire in diretta via voce o via testo, per fare domande, per inviare segnalazioni anche solo della musica. Qua siamo a Radio Default, via Guidobaldi 56, passate a trovarci, la radio non campa d'aria, e venite a trovarci, intervenite, pigliatevi una birretta ed ecco qua. Riprendiamo con la trasmissione su... dopo il Muos di Niscemi e prima di Albano, visto che siamo la radio locale a vocazione universale, leggiamo un aggiornamento che ci arriva dal forum sociale mondiale che si è svolto in Tunisia. Questo qua è un articolo che viene dalla testata online Globalist, un articolo di Simonetta Cossu, che è andata in questi giorni agli incontri che si sono tenuti proprio sulle vertenze ambientali alla Facoltà di Scienze di Tunisi. Quindi andiamo a leggere. Dalla Val di Susa alla Tunisia, stop alle grandi opere. Una delegazione NOTAV ha promosso insieme ad altri comitati una piattaforma internazionale di collaborazione tra i movimenti che si oppongono ai progetti giudicati inutili. Il World Social Forum di Tunisi è la prima volta di molte cose, tra queste anche la presenza di realtà locali che hanno deciso di aderire partecipando ed organizzando eventi. Tra questi anche una delegazione della Val di Susa, del movimento NOTAV, che ha promosso insieme ad altri comitati una piattaforma dal titolo Stop grandi opere inutili ed imposte. Una piattaforma internazionale, ci spiega Paolo Prieri, esponente di punta del movimento NOTAV, di collaborazione e di scambio di informazioni tra i movimenti popolari che si oppongono a grandi progetti che vengono giudicati inutili e dannosi per i cittadini, che sprecano una grande quantità di denaro pubblico e hanno come unico fine la speculazione finanziaria e l'arricchimento delle lobby. Nella sala M212 della Facoltà di Scienze troneggia un grande banner con 7 elefanti bianchi che portano in groppa i simboli di altrettanti progetti, tra i quali c'è la TAV, o meglio il TAV. Prieri spiega il simbolismo di questo loro nuovo logo, che è anche già sfilato in Val di Susa all'ultima manifestazione. L'elefante bianco, ci racconta, lo hanno proposto gli inglesi, che si sono ispirati alla tradizione indiana. L'elefante bianco è sacro in India, quindi non può lavorare e quindi chi lo possiede è praticamente un uomo rovinato, in quanto lo può solo mantenere senza ottenere niente in cambio. Scherzando, Prieri fa anche la battuta che proprio da Tunisi sono partiti gli elefanti di Annibale, che poi si sono arenati proprio tra le montagne della Val di Susa. Diciamo che però non ha smesso di mantenere sotto scacco i romani, però vabbè. A Tunisi il Forum delle Grandi Opere Inutili e Imposte ha organizzato 3 seminari sul tema correlati alle lotte popolari e che fanno parte dell'Assemblea di Convergenza delle Lotte. Primo appuntamento con un giovane di nome Hassan, che arriva dal Marocco per raccontare la storia dell'alta velocità Casablanca-Tangeri. Racconta l'assurdità di questa grande opera voluta dal re Mohammed VI e sponsorizzata dal presidente Sarkozy. Annunciata nel 2008, in concomitanza alla visita del presidente francese a Tangeri, è stata presentata ufficialmente all'inizio del 2010 ed è entrata in fase operativa dal settembre scorso. Ma il capriccio di Mohammed VI, prontamente avvallato dalla classe politica, si sta scontrando con l'opposizione della società civile, che critica i gravosi oneri di un'opera lontana dalle priorità del paese. L'idea di dotare il Marocco di un TGV, quindi un treno ad alta velocità, risale al 2003, quando l'ONCF, l'Office National des Chemins de Fer, scusate il francese, significa l'azienda ferroviaria nazionale, aveva commissionato alla società francese Sistra uno studio preliminare sull'impatto socio-economico della linea ad alta velocità Casablanca-Marrakech-Agadir. Va sottolineato che la tratta al momento è sprovvista tuttora di un normale collegamento ferroviario, mentre quello autostradale è stato inaugurato solo nel 2010. A parte questo, il progetto si basa su un protocollo d'intesa per la sua realizzazione, senza che nessuna valutazione d'impatto sia stata resa pubblica e senza che nessuna gara fosse promossa per realizzare l'opera. Costo dell'operazione 2 miliardi e mezzo di euro, questo solo per iniziare. D'altronde abbiamo visto anche qua in Italia, aggiungo io, che i costi della TAV sono partiti che erano un tot e sono lentamente lievitati, anzi nemmeno troppo lentamente lievitati con il passare del tempo. A beneficiare della commessa dell'alta velocità marocchina sono state tre imprese francesi, la SNCF, proprietaria del marchio Teguevé, la RFF e la multinazionale Alstom per la fornitura dei materiali, oltre all'azienda ferroviaria nazionale a cui sarà affidata la gestione della nuova linea. Hassan racconta di come questo progetto sia totalmente inutile per un paese dove la maggior parte della popolazione vive in povertà. Secondo i dati UNDPTA dell'UNDPTA, un quarto della popolazione vive sotto la soglia della povertà, mentre il salario medio, per chi ce l'ha, è di 200 euro al mese. Al posto della speculazione e della devastazione ambientale provocata dalla linea del Teguevé, dicono i sostenitori del movimento No Teguevé, con i 25 miliardi di dirhams, la moneta marocchina, pari appunto ai 2 miliardi e mezzo di euro, si potrebbero costruire 5.000 scuole o 3.000 licei nelle zone urbane, o alla costruzione di 25.000 scuole nelle zone rurali, o a 25 grandi centri ospedalieri con capacità di 22.000 letti per gli ammalati, o ancora 16.000 centri socioculturali, biblioteche o centri sociali di quartiere, oppure 16.000 chilometri di strade rurali. Quindi un ragionamento che vediamo che hanno fatto non solo, stanno facendo solo i compagni marocchini, ma anche un ragionamento che hanno fatto in Val di Susa, quanto costa un chilometro di TAV. E a finanziare il progetto, continuiamo con l'articolo, a finanziare il progetto sono intervenuti soldi dall'Arabia Saudita, dal Kuwait e da Abu Dhabi. Da parte francese sono arrivati in regalo, tra virgolette, 82 milioni di euro. Regalo che suona molto pratico, visto quello che incasseranno le aziende francesi per l'opera. La mobilitazione non cammina con le proprie gambe, ma che è stato il Movimento 27 Febbraio a organizzare la giornata di lotta, e se questa opera sarà realizzata separerà intere famiglie e popolazioni. Infatti i binari dell'alta velocità non prevedono attraversamenti. A chi gli chiedeva se si trattasse di colonizzazione francese o dei paesi arabi, Hassan ha risposto: è una colonizzazione economica, non è importante di che colore sono i soldi. La Val di Susa fa proseliti e non intende fermarsi. Due scout della delegazione sono a caccia al forum per incontrare i rappresentanti contro le dighe in India e in Iraq. Quindi, come vediamo, la messa a profitto dei territori non è solo prerogativa italiana. Abbiamo visto appunto l'esempio marocchino, ma sulla alta velocità ci può anche essere l'esempio della linea che collega Gerusalemme e Tel Aviv. Importante appunto il fatto che tutti questi movimenti, come anche noi qua ad Albano, ragionamento che anche noi ad Albano abbiamo fatto, di capire cosa si potrebbero fare con questi soldi. Noi abbiamo fatto un volantino poco fa in cui appunto elencavamo i progetti che si potevano finanziare con i 400 milioni di euro dell'inceneritore, e che sono soldi che appunto non vengono concessi per progetti veramente utili alla società, con la scusa appunto delle spending review, della crisi, della solita retorica del che abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, come se fossimo tutti dei nababbi, mentre invece, come abbiamo visto, i soldi per opere ben più inutili, ma che evidentemente portano benefici ad altre persone che non siamo noi, invece in questo caso si trovano tranquillamente. Per la gente del Borgata, quel Finocchio, il solo amore per la Borgata, è un amore tossico che ci tiene uniti tutti i giorni, tutti i mesi, tutti gli anni. È così, Fester, Bella Sparo, Simo, Gufo, siamo qui a difendere Roma,

che, come riporta il Fatto Quotidiano di ieri, si starebbero preparando a ostacolare e contrastare la polizia anche con oggetti pericolosi. Quindi la solita tattica, quella di parlare di eventuali infiltrazioni, di dividere appunto tra buoni e cattivi, e ci casca in qualche modo anche Crocetta, che appunto il governatore della Sicilia, che è stato, come abbiamo detto prima, costretto a sospendere i lavori proprio grazie a questa forte mobilitazione popolare, e dice: abbiamo revocato le autorizzazioni per la realizzazione del MUOS, dunque mi auguro che quella di oggi sia una giornata di festa, non più di protesta, un momento di riflessione su un tema particolarmente importante, e che non si verifichino disordini. Come ci ha detto prima il compagno del non MUOS, è comunque una giornata di protesta, nonostante la decisione di ieri del governo regionale. Quindi non è una giornata di festa, è una giornata di lotta, perché ci ha detto appunto Edoardo, il non MUOS non si fida, come non si è fidato in passato, delle decisioni della politica, anche perché, come a gennaio, dopo la sospensione temporanea, anche oggi c'è il rischio che, nonostante questa decisione, appunto gli americani continuino appunto i lavori all'interno della base. Ricordiamoci che dopo la prima sospensione cautelativa in autotutela da parte della regione, la regione ha inviato appunto un funzionario presso la base di Niscemi, e le autorità militari hanno deciso di non accoglierlo, e quindi l'hanno rispedito indietro, nonostante appunto avesse una comunicazione ufficiale da parte della regione siciliana da consegnare alle autorità militari statunitensi. Ricercato come il mostro di Loch Ness, prodotto zero stress, intoccabile come gli Hot Ness. Pass, mi pai se vuoi, come far sai, se sai che forse questa volta mi vedrai. Ti ho dato il testimone, adesso lo rivolgo. Meglio che scendi e prendi il tuo bagaglio. Non voglio averti in testa più, come il mio tattoo. Io appartengo alla preistoria come Ryu, merda, non ne prendo più. Quasi laureato, questa è la mia tesi. Psicosi, pura, contagiosa, peggio del colere. Allora se mi senti e non mi vedi, forse sono alle tue spalle. Sopra le tue spalle, tipo scialle. Sopra gli 8000 si respira male. Vedi che ho la fanno, ma comunque qui c'è il sole. Per cui se vuoi provarci fallo pure, tanto non mi affondi. Quindi è ora che tu scendi. Io smiro. Già sai com'è qui. È come la nazionale, baci. Chi è più in forma scende in campo. Non so se puoi testare o capire lo spessore. Secondo me è meglio che stai a casa. Capisci? Per il 9-6 è ancora più avanti. からみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 I'm the y'all can stop me now. Listen to me now, I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style. Holla, holla. People sing around, now people gather around, now people jump around. Ricordiamo che state ascoltando Radio Default, aggiornamenti dal corteo Non Mus di Niscemi a cura di Ops Connecting Fights. In your face, open your mouth, give you a taste. Holla, ain't no stopping me. Copywritten, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now, I know you hear me loud. I scream it loud and proud, Missy gon' blow it down. People gon' play me now, in and out of town. Cause I'm the best around, with the crazy style. Get your freak on, get your freak on. Sentiremo di nuovo, avremo un'altra corrispondenza dal corteo, aspettiamo appunto che il corteo cominci e per sentire appunto Giovanna del coordinamento romano Non Mus, quindi per parlare anche di questa cosa importantissima, del fatto che appunto è nato anche qui a Roma un coordinamento Non Mus. Le chiederemo appunto cosa ha portato alla nascita di questo coordinamento e poi aggiornamenti appunto dal corteo stesso. Intanto magari iniziamo con qualche aggiornamento su ciò che ci riguarda un po' più da vicino, cioè sull'inceneritore e quindi sulla notizia di ieri del TAR e poi appunto parleremo del corteo di sabato prossimo. Quindi ricordiamo che sabato prossimo 6 aprile ad Albano ci sarà un altro corteo contro l'inceneritore, quindi vi invitiamo a partecipare, è importante essere presenti, è importante in qualche modo ribadire la nostra contrarietà anche portando parole d'ordine un po' nuove, perlomeno appunto rispetto a questa vertenza importantissima. Sicuramente bisogna innanzitutto parlare e lanciare in qualche modo lo slogan, che non deve essere solo uno slogan, ma comunque ribadire la necessità di bloccare materialmente il cantiere nel momento in cui appunto partisse. Quindi sicuramente bisognerà discutere della necessità di costruire, come dicevamo prima, anche imparando da altre vertenze, come quella del non MUOS, la necessità di costruire appunto un presidio permanente nei pressi della discarica e quindi del sito dove vorrebbero costruire questo inceneritore, che ricordiamo sarà nei piani di chi l'ha deciso, appunto l'inceneritore più grande d'Europa. Sicuramente rimane una questione di fondo ancora da risolvere, nonostante le decisioni amministrative e giudiziarie, cioè la questione dei soldi. Ricordiamoci che, come tutte le opere inutili di questo paese, dalla TAV in poi, anche quello dell'inceneritore d'Albano è in qualche modo una truffa ai danni di tutti noi, non solo perché saranno appunto i cittadini dei territori e gli abitanti di questo territorio a subire i danni alla salute, ma soprattutto perché questi danni alla salute, che andranno ad arricchire un privato, in questo caso Cerroni, saranno fatti nel nome dell'interesse generale e quindi con soldi pubblici, quindi 400 milioni di soldi pubblici che però ancora non si capisce da dove verranno presi. Quindi a breve aggiornamenti dalla sentenza del TAR di ieri, e poi continuiamo appunto a discutere di questo, e poi arriveremo all'altra corrispondenza con il corteo non MUOS. With the doorbells now, someone says that I'm insane. Why did I say that? Did I mean that? Explain that. When you turn your back, I'll be there with the payback, and you'll never ever say it again, Jack. Believe me, that will be the last time you see me. Who says that? I say that. I will take you back in the days. Remember the microphone challenge, your damage to the white spot in the booty band of the heart member. Radical stuff, Italian hip hop history. What were you? I don't know. You're not there. It's a mystery. Styles after styles, I've been changing, twisting. My name is always on the black book. The final chapter 96, knocking you out of his atmosphere. Original Smith and Wilson, and we out of here. Rullante cassa Charlie, con primo binario come un treno. Questo beat è grasso come Marlon Brando nel Padrino. Io non bevo il tuo veleno, non mi aggrada, questo già lo sai. Pesco giù nel torbido come San Ben. Ehi, ma le mie origini, particolare stile, stile particolare, roba radicale, ma l'86, faccia ancora puro, resto accese. Io la notte come un sparo. Guarda poi fiero che si esprime quando esprime il vero, in modo serio. Prezzo come l'oro, se lo vuoi comprare svuota le tue tasche grasse. Sei il principio della fine per le poste. Non chiedo spazio, me lo prendo, sto sopravvivendo. Anche ma show potenza nucleare a 100 megaton. Due pesi, due misure fatte apposta per lo scauto. Se credi che io scenda sei un illuso, è il peso del passato che ritorna per schiacciarti. Non voltarti, l'unico modo che c'hai di uscire è quello di studiare. Non fate più pregare, per favore stai più attento. Se mangi nel mio piatto non mi offendo, io ti sfondo. E non pretendo che capisci, sono raggia che dimostra il lato oscuro del fastidio. Quello che non senti in radio, per quanto mi riguarda sto tranquillo nel mio vivere. 86-96, continuo a credere. Potenti della terra fanno il VIP. Club D fa click click fuori dalla loro suite. Sfugge alle indagini del Jeep. Fugge a bordo di una Jeep. È l'ingiustizia made in Italy. Con le buste in Parlamento e i politici corrotti sono qui. Rivoluzione suono ME. Ti tiro fuori dallo schermo di quella TV. Ti prosciughiamo il conto in Swiss. Scusate l'interruzione, una spanna dalla tua faccia. La canna. Allora, torniamo qui in diretta da Radio Default, ci potete seguire chiaramente con il nostro contatto Facebook su Skype, radio.default, spammate, diffondete, anche perché Questo pomeriggio è dedicato alle lotte ambientali, a chi si sta mobilitando ormai da qualche settimana. Si è partito il 16 di marzo con il corteo contro il ponte di Messina, ha proseguito la settimana scorsa con il corteo dalla Val di Susa, tant'è che qui sempre in radio abbiamo seguito in diretta la grande marcia che ha totalmente, diciamo così, inondato le strade della Val di Susa. Oggi invece parliamo di MUS, parliamo di guerra, di antenne militari, di occupazioni militari, anche perché più di una volta abbiamo visto che le vertenze ambientali subiscono, oltre che all'aggressione del territorio, una militarizzazione del proprio territorio. Il MUS credo che sia la dimostrazione più esemplare rispetto a questo, ma anche dalle nostre parti, dall'inceneritore di Albano, tutto sommato non è che sia tanto diverso. Le notizie di questi giorni purtroppo non sono buone. La prima riguarda la famosa sentenza del TAR, il TAR che aveva dato inizialmente ai primi di marzo una sospensiva che per temporaneamente bloccava l'inizio del cantiere. Oggi in realtà, anzi il 28 di marzo, il TAR si è espresso definitivamente sulla questione, ha detto che possono partire i lavori, che va tutto bene, non c'è nessun tipo di inquinamento, l'acqua è tutto a posto e che quindi possiamo tranquillamente avere questo bellissimo nuovo impianto di incenerimento che ci farà respirare meglio, come pensano questi signori. Probabilmente non sarà così, perché è evidente che verrebbe meno il principio di precauzione. La cosa assolutamente sconcertante che potete leggere anche sulla sentenza del TAR è che praticamente dichiarare uno stato di inquinamento precedente all'accensione dell'inceneritore è una cosa che non ha senso. Forse il TAR non si è accorto che gli inceneritori in giro già ce ne sono molti e che purtroppo la questione delle falde acquifere, della discarica di Roncigliano e del dissesto idrogeologico che vive quella zona, ma non solo, ormai sono acclarati, stanno sotto gli occhi di tutti. Già l'ARPA aveva segnalato qualcosa in merito, nonostante ci siano stati anche lì delle modalità poco chiare per insabbiare quello che erano i dati dell'ARPA. Comunque sia, ecco, oggi ci troviamo di fronte a questa sentenza che rischia di far realmente iniziare i lavori dell'inceneritore d'Albano. Ora la questione che rimane aperta chiaramente rimane sempre quella dei fondi. Dove verranno presi questi fondi, dal momento che Cerroni continuamente lamenta il mancato rispetto da parte della Regione Lazio del finanziamento pubblico. Nelle prossime settimane sicuramente questo andrà capito. Ci sarà questa manifestazione il 6 aprile, che noi ci auguriamo che sia la più partecipata possibile. Nei momenti più difficili il movimento No Inceneritore d'Albano ha dato le migliori risposte. C'è una difficoltà oggettiva, forse bisognerà riguardare alcune strategie, perché chiaramente la mobilitazione fatta solamente con le carte bollate purtroppo non ci aiuteranno in maniera definitiva a bloccare il cantiere, lo possono soltanto rallentare, per cui sarà necessario una presa di posizione forte di tutti quanti noi, non solo dai castelli romani, perché la questione delle grandi opere, siano TAV, siano MUS, siano inceneritori o discariche, dobbiamo fare in modo di bloccarle con ogni mezzo necessario. Thank you. Udite, udite genti, per le acque e per le terre, pronti per l'imbarco. Viandanti senza meta, navigatori del confusianesimo, mercanti del suono, apprestatevi. Il carretto possibile sta salpando alla foce del fiume sonoro, precipitando verso l'alto, dove la terra trema e la costa resiste a improvvise e forti mareggiate. Eserciti di granchi, alzano in aria le chele, festeggiamenti in corso, odori e sapori naturali, il combattimento nell'impero unico del senso. Si espandono le memorie, si raccontano le storie, girano le voci nelle strade. Batti, batti le manine, che è arrivato il professore. Calma piatta, pensieri in programmazioni per teste vuote aperte, ragionamenti sott'acqua, danneggiatori in missione, fuori dal tempo e dallo spazio che deforma, dove ciò che non si dice informa. Qui non si gira per la selva oscura. È tutto chiaro? Niente di più reale di questa fantasia. E rieccoci di nuovo ai microfoni di Radio Default. Questo è Ops Connecting Fights, trasmissione di aggiornamento sulle lotte dei lavoratori e le lotte contro le devastazioni dei territori che attraversano il nostro bello stivale. E ricordiamo, stiamo seguendo oggi in diretta la, il corteo dei Nomuos a Niscemi, e fra poco ci collegheremo con una compagna che sta, che ci darà gli aggiornamenti direttamente dal corteo. E stiamo parlando di inceneritore di Albano. Abbiamo visto infatti, no, pochi minuti fa che dicevamo che il TAR ci ha dato sostanzialmente torto nel ricorso, e riagganciandoci a ciò che dicevamo prima sui compagni marocchini che lottano contro il TGV, contro il TAV, noi abbiamo fatto una piccola ricerca per capire quanto costava l'inceneritore, che sappiamo essere tra i 400 milioni di euro, abbiamo cercato di capire, anche con i dati di Emergency, che cosa ci si poteva fare con questi 400 milioni. Allora, abbiamo, diciamo, con questa grande spesa, che ricordiamo l'inceneritore non ci dà né risolve il problema dei rifiuti, perché richiederà comunque nuove discariche ed è dannoso alla salute, a fronte di questi appunto 400 milioni ben spesi, tra virgolette, si potrebbero fare 3.706 giardinetti con parco giochi, 11 ospedali per 500.000 persone, mentre l'ospedale dei Castelli è ancora latita, 4 restauri di Pompei, che ricordiamo cade a pezzi, 112 palestre comunali, 66.666 sussidi di disoccupazione, ricordiamo che stiamo in situazione di crisi, dalla chiusura della Monte Bovi all'edilizia, che nel Lazio, settore trainante dell'economia del Lazio, che è in crisi, tanti disoccupati, tanti cassintegrati. Con i 400 milioni necessari per costruire un inceneritore, 66.000, quasi 70.000 disoccupati potrebbero avere un sussidio di base. Si potrebbero acquistare 3.809 ambulanze, che in periodi di spending review invece vediamo sempre i nostri cari ospedali tagliati, pronti soccorsi chiusi. Se qualcuno si sente male a Rocca Priora, deve arrivare fino a Frascati, non può, a Marino è chiuso. 348 scuole materne di 1000 metri quadrati, e ricordiamo quanto sia difficile per una famiglia di lavoratori e lavoratrici riuscire a trovare un posto in un asilo nido pubblico, a meno che non si vada in un asilo nido privato, che quindi costa, e ricordiamo che i soldi sono pochi, a meno che non si abbia qualche genitore, qualche nonno che si tenga il nipotino, il figlio viene lasciato a se stesso, e stando in una società patriarcale ovviamente è la mamma in genere che rimane a casa. Si potrebbero costruire 220 biblioteche, finanziare 18.181 assegni di ricerca, che ricordiamo i tagli all'università grazie alla signora Gelmini, oppure 71 case di riposo per gli anziani. Insomma, 400 milioni ci dicono sempre no, no, no, voi dite sempre no, no, no, noi diciamo un sì, diciamo no all'inceneritore, ma diciamo un sì a tutte queste cose che si possono fare con questi soldi. Allora, ci arriva una richiesta musicale da parte di Robertina, quindi la mandiamo immediatamente. Questa è Attacco alle menti, ce negano l'amore. Ci chiedono, ritorniamo in onda, ci chiedono una rettifica, in realtà non è una rettifica. Quando prima dicevamo che in assenza di scuole materne, in una società patriarcale, le donne rimangono a casa, di certo non elogiavamo il fatto. È un dato di fatto che in una società in cui la donna, in una società patriarcale come questa, in cui la donna viene infilata ai gradini più bassi, e quindi è costretta, oltre a sobbarcarsi il suo normale lavoro, anche a sobbarcarsi la cura della famiglia, ovviamente se non in genere, se non ci sono dei sistemi come appunto degli asili nido accessibili a tutti, in genere appunto è proprio la donna l'elemento che rimane a casa e non lavora. Tendenzialmente in questa società è così, non ci piace questo fatto e Ah no, ci arriva la rettifica sul termine scuola materna. Ah, scuola dell'infanzia. Ci chiedono di dire scuola dell'infanzia. Scuola dell'infanzia, va bene, esatto. Con un chiediamo scusa per il fuori onda un po' incartato, e diciamo che la scuola dell'infanzia non è scuola materna, gli asili nido non sono scuole materne, sono scuole per l'infanzia. Va bene. There's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. But do whatever you see, through all the rain and the pain, you gotta keep your sense of humor. You gotta be able to smile through all this bullshit. Solo grandi incartate su Radio Default. Our lifestyles be closed caption, addicted to paper tractions, pictures of actions be played back in the midst of mashing. No fairy tales for this young black male. Some see me stranded in this land of hell, jail and crack sales, hustling and hardly think of culture or the repercussions while busting on backstabbing vultures, selling my soul for material wishes, fast cars and bitches, wishing I lived my life a legend, immortalized in pictures. Watch that tears, say your sympathy. My childhood years were spent burying my peers in the cemetery. Allora, sempre aggiornamenti sul coordinamento, sulla vicenda del movimento No Inch di Albano. Chiaramente prima dicevamo di quella che è stata la notizia un po' di questi ultimi giorni, ricordiamolo, il 28 di marzo il TAR si è espresso definitivamente su un ricorso da parte del comune di Albano che chiedeva la sospensione della determina con la quale la Regione Lazio dà il disco verde definitivo per il cantiere dell'inceneritore d'Albano che dovrebbe sorgere sulla via Ardeatina, località Roncigliano, quindi nel quadrante tra i comuni di Roma, Pomezia, Ardea ed Albano. Sarà uno degli impianti più grandi d'Europa, almeno questi è tra i desiderata del signor Cerroni, quindi la vicenda del ricorso che dai primi di marzo stava evitando l'inizio del cantiere purtroppo oggi viene meno, e questo deve farci un po' riflettere tutti quanti e cominciare immediatamente a metterci in marcia verso il 6 di aprile, che ci sarà questo nuovo corteo per le vie dei Castelli Romani, un corteo che sicuramente dimostrerà che il movimento No Inceneritore Albano ha ancora molto da dire, che chiaramente cercherà di ritrovare nuovi stimoli anche attraverso una maggiore partecipazione popolare anche alle decisioni da prendere nelle prossime settimane, dove inevitabilmente la mobilitazione dovrà inevitabilmente crescere e essere più incisiva e più capace di quella che è stata fatto finora, per cercare di costruire maggiormente quelle possibili alternative che, ricordiamolo, ci sono e che invece tante amministrazioni locali, tanti politicanti di turno fanno finta di non vedere, tant'è che la questione della tanto sbandierata raccolta differenziata rimane purtroppo ogni volta uno slogan da presentare in campagna elettorale. Come se ciò non bastasse, le notizie negative vengono anche per quanto riguarda le vicende di tipo legale che purtroppo tanti attivisti No Inch della zona dei Castelli Romani e non solo hanno dovuto fronteggiare ormai da diversi anni a questa parte, ormai dal 2007, da quando ha avuto tutto inizio. E proprio caso ha voluto che proprio ieri, mentre arrivavano le notizie della sentenza del TAR, arrivavano anche notizie da parte di alcuni da parte di alcuni legali del movimento No Inch, che segnalavano che ben 15 decreti penali di condanna sono spiccati dal Tribunale di Velletri nei confronti di altrettanti attivisti, e che riguarda una bella multa di 5.000 euro. L'accusa da parte del GIP De Angelis è quella di interruzione di pubblico servizio. Ricordiamo che invece si tratta semplicemente, perché anche tanti di noi c'erano, di un presidio davanti, uno dei tanti che ci sono stati davanti alla discarica di Roncigliano. Capiamo che chiaramente questo tipo di avvertimenti è anche una risposta che si cerca di dare per fare in modo di mettere paura, creare la cosiddetta, diciamo così, repressione preventiva, che cerca di intimidire coloro che magari invece vogliono e continueranno sicuramente a difendere i propri diritti, la propria salute e il proprio ambiente. Una questa storia obbligo morale. Russo распиздото маниакале и паранормале. О солнце Санта-Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, тай-да-ри-да, в посольствах США отказ. Там недалеко от Рима есть город Палестрина, звезда периферии, вся в маслинах стала наша малина. О, мама Палестрина, встречайте пьяных пилигримов, без права на выезд, без визы на вдох, без визы на выдох. И я взмолился к Экату, и о Борго Мадонна, где тритворный подъезд, или этот отъезд, тело мусоропровода. Сама хедья у меня мадре, ау, крещендо паранойя. Сама хедья у меня мадре, ау, Борго Мадонна. Porca Madonna Pasquale a tutti. На американа Зарта кой время Севре отстояли Уна миллионера Поэты, юристы, медики Все фарцой стали Хохламу самовары Редкость товары Все фуфло толкали Крутые навары Но друг перед другом все Свой отъезд оправдали. Я на пьяца до вона сидел, растягивал шкварку. Ну конечно флиртовал, но и семье помогал. А я на римской мостовой, я лежал, ждал бы бой. Ой-ой-ой-ой, я так бросил пить, оттуда еще этот папа. Sarà che ti ho unito a te, oh, mondo di vigilanza. Mondo di vigilanza, sarà che ti ho unito a te. Это так по всей хваре, и стали их имена. А их там мудохан, за мудохан, мудохан. А солнце Санта Маринеллы вгрызалось нам в капилляры. Allora, abbiamo appena ricevuto una chiamata da Giovanna del Comitato Romano No Muos, la sentiremo in diretta tra un qualche minuto, tra una decina di minuti più o meno. Ci dice, ci ha detto appunto che il corteo sta andando benissimo, si sta avvicinando alla base americana, alla base militare americana di Niscemi, e da quello che ci ha raccontato sta andando oltre ogni aspettativa, diciamo, sia per quanto riguarda la partecipazione, per quanto riguarda appunto la partecipazione. Adesso abbiamo appena condiviso sulla nostra pagina Facebook un comunicato, il comunicato di Repubblica, che vi vogliamo leggere. Ricordiamo che Repubblica appunto è un percorso avviato da qualche mese a Roma, che noi di Ops abbiamo guardato con attenzione fin dall'inizio, tant'è che è proprio la decisione in qualche modo di occupare temporaneamente, il teatro è nata anche dopo quell'occupazione che Repubblica ha portato avanti in quel di Trastevere, appunto, dove hanno tolto dalle grinfie della speculazione un cinema, il Cinema America, appunto, che adesso è occupato e diciamo vive di vita propria grazie appunto all'attività dei tanti ragazzi che partecipano a quell'occupazione. Allora, leggiamo questo comunicato, il 6 e il 7 aprile, quindi sicuramente qui da, c'è questa iniziativa di Repubblica, si chiama Repubblica to be continued. Ne parleremo sicuramente sabato prossimo dai microfoni di Radio Default di Ops Connecting Fights, prima del corteo dell'inceneritore, e vediamo che cosa ci dicono. Nello scorso novembre alcuni comitati, realtà sociali, collettivi, cittadini e cittadine hanno dato vita alla prima esperienza di Repubblica, occupando e facendo vivere con un'intensa 3 giorni di discussione il Cinema America a Trastevere. È stato uno spazio pubblico di discussione all'interno del quale abbiamo camminato insieme per comprendere le reciproche differenze e soprattutto per cercare in essi il senso condiviso delle battaglie sui beni comuni nel territorio di Roma. Abbiamo concluso quell'esperienza con un progetto comune che parla differenti linguaggi e che si è già messo in moto con la campagna di ripubblicizzazione di Acea, quella su Cassa Depositi e Prestiti, con la mappatura sui luoghi abbandonati e dismessi del Comune di Roma. Oggi non vorremmo semplicemente replicare quell'esperienza, ci piacerebbe provare a dargli nuova linfa riunendo di nuovo le battaglie per l'acqua, quelle sui rifiuti, sui saperi, sulla difesa del territorio e dei diritti, con la speranza di far diventare la pratica di Repubblica uno strumento utile per le battaglie che conduciamo in questa città. Sabato 6 e domenica 7 proporremo 2 giorni di approfondimento, dibattito e confronto su dei temi che attraversano trasversalmente le nostre lotte quotidiane e che hanno fatto parte anche della prima esperienza di Repubblica. Il territorio, con la presentazione dell'inchiesta sulla Roma abbandonata fatta da Repubblica. Le nuove forme di mutualismo, con la testimonianza della fabbrica occupata e autogestita della Maflo di Milano. I saperi e le interconnessioni con i beni comuni. La finanza e le proposte di audit come strumento per sostenere le lotte per le ripubblicizzazioni dei beni comuni. Ancora una volta discuteremo di questi temi in un'occupazione temporanea di uno dei tanti spazi pubblici vuoti e abbandonati di questa città. Un gesto simbolico che allude alla necessità di riprendersi degli spazi collettivi, di sottrarre pezzo per pezzo la nostra città al profitto e dalla speculazione. La seconda esperienza di Repubblica non vuole essere conclusiva, si tratta infatti di un processo aperto, in continuo divenire, per questo invitiamo tutte e tutti a contribuire, sostenere, partecipare, diffondere e riprodurre ulteriormente. Per continuare a riprepararci insieme del nostro territorio, delle nostre risorse, dei nostri saperi, Repubblica to be continued. Ops sicuramente parteciperà, quindi ne riparleremo sabato prossimo appunto dalle frequenze di Radio Default. Adesso andiamo con una traccia che ci è stata richiesta da una delle nostre più assidue ascoltatrici, nonché parte integrante di Radio Default, Alessia, quindi 99 post con O Documento. Ricordiamo ricordiamo, Alessia Di Genzano. Ramo documenta casino po' dall'amiento documento tu me le ara. Song song la dico sto voglio ricere sto voglio canta. Ramo documenta casino po' dall'amiento documento tu me le ara. Song song radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Passaporto, patente, carta d'identità. Un bello documento, prima o poi tu me le ara. Un bello documento per ti identificare. Un bello documento, ya managgia, ya cucca. Voglio tutta giornata a te controllare. Riunione, cortei, centri, università. No, no, no, non c'è faccio più, non te vai mi a cucca. Adina, una mamma, la fatica. Assurzie, cacu, cazzi, te la già palua. Voglio un ramo documento per ti identificare. Sì, posso, posso, posso, posso. Documenta casino vo dall'amiento documento tu me le ara. Song song radico sto voglio ricere sto voglio canta. Ramo documenta casino vo dall'amiento documento tu me le ara. Song song radico sto voglio ricere sto voglio canta. O documenta non mi scappa nessuno con Cristo. Ma 791 cavalluna rompa cazzo tossi c'è disoccupati. Cani sciolti o compagni organizzati. È una fissazione mia, è una vera malattia. Se non vengo documenta non funziona che ho strumenta. Non pago chi ho magna, ma so chiura ne stantina. Non riesco che ho caca, sono carne tutte vile. Ramo documenta, rompa rompa rogazza. Ramo documenta, prima canta rompo mazza. Ehi, puzzolo puzzolo puzzolo puzzolo puzzolo puzzolo puzzolo puzzolo puzzolo puzzolo puzzolo puzzolo puzzolo. Ramo documenta, casino po' dall'amiento documenta tu me le arra. Song song radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. I ma robo top style. Style. Quello fa tre giorni fila all'ufficio comunale. Giù in ogni che ho pulita si è scassato dormina. Era nuova capellezza ma voleva in cornicia. Ma mo non passa giorna senza che la giaga c'ha. Metta per a fuori a casa. Giovanotto, documenti. Songo guardie le capite e amo in un posamento. Prefetta in sana botta si se sciupa documenta. Si tanchiava cafetina. Sai come fai contenta ma mo basta che sta storia. Mo c'è si ma rutto cazzo. Non torungo documenta vieto su noi e sciapazza. Non torungo, torungo, torungo, torungo, torungo, torungo, voglierà. Torungo, torungo, torungo, torungo, torungo, voglierà. Documenta cada viaggio dall'amiento documento non voglierà. Ma una passa po' cazzo radigos to voglio ricere to voglio cantare. Sento documenta cada viaggio dall'amiento documento non voglierà. Ma una passa po' cazzo radigos to voglio ricere to voglio cantare. Tana fottere mazzata tana fottere a galera. Nemo con ma mettono mai amo in non ne manera. Mo mo chiavan faccio cazzo su marone da serina. Sin da pozza manca più cago cazzo ogni mattina. Allora a mia moglie c'è cerco documento. C'è io sono più contente. A mio figlio c'è cerco documenta. Ma guardare in tacullo rire non capisce niente. Puri sulla ma cerco documenta. Ma cago su di stesso caccio immediatamente. Puri sulla ma cerco documenta. Chiamo terminale ma controllo le precedente. Sento documenta cada piaccio dall'amiento documenta non voglierà. Ma una passa po' cazzo radigos to voglio ricere to voglio canta. Sento documenta cada piaccio dall'amiento documenta non voglierà. Ma una passa po' cazzo radigos to voglio ricere to voglio canta. Com'era nuovo se se si com'era nuovo se se si com'era nuovo com'era nuovo com'era nuovo voglierà. Com'era nuovo se se si com'era nuovo se se si com'era nuovo com'era nuovo com'era nuovo voleva un cornicia. Com'era nuovo se se si com'era nuovo se se si com'era nuovo com'era nuovo com'era nuovo voglierà. Com'era nuovo se se si com'era la mo voleva incornicià. Sento documenta cada piaccio dall'amiento documenta non voglierà. Ma una passa po' cazzo radigos to voglio ricere to voglio cantare. Una tavola. Sento documenta cada piaccio dall'amiento documenta non voglierà. Ma una passa po' cazzo radigos to voglio ricere to voglio cantare. Patam patam fa solo che patam. E un aggiornamento subitaneo dalle situazioni di lotta, la Roma sta perdendo a Palermo. Ripeto, la Roma sta perdendo a Palermo. Emigra punk. Emigra punk. Emigra punk. Pow!

Pronto? Sì, era quello. Pronto? Sì, pronto Giovanna, ciao, siamo in diretta su Radio Default. Ciao, scusami, io sono in mezzo al corteo e non si sente niente. Ok, vuoi che ti richiamiamo tra qualche minuto? Dicci te. Vabbè, così voi sentite? Sì, noi ti sentiamo benissimo. Se tu mi senti possiamo anche fare così, come preferisci te. Pronto? Pronto? Problemi tecnici. Wind, stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria. Wind, problemi, ancora qualche secondo di attesa, cercheremo di collegarci con Giovanna dal corteo. Only you and make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Baby, only you. Allora, qualche aggiornamento dal corteo. Ci parlano appunto su Repubblica, leggiamo che il corteo Non Mus è aperto. In testa al corteo ci sono appunto i bambini di Niscemi che hanno lasciato davanti all'ingresso della base americana alcuni robot giocattolo, appunto un gesto assolutamente simbolico per vincere, dicono, la battaglia contro i mostri, appunto, e contro, la speculazione sui loro territori che vorrebbero fare. Stiamo ancora tentando di collegarci con il corteo, abbiamo come avete sentito qualche difficoltà, però ecco. Ecco, adesso squilla, vediamo un attimo. Pronto? Sì, pronto Giovanna. Ciao, ci senti adesso? Pronto? Non sento niente. I understand the magic that you do. You my dream come true, my one and only you. Allora, riproviamo a metterci in contatto con Giovanna. Purtroppo non è semplicissimo, però vediamo un attimo se adesso lei ci sente. Cioè, lei ci sentiva, eravamo noi in questa volta a non sentirla. Wind, stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica. Non è facile, telefonica. Vicino alla base americana. Risponde la segreteria telefonica di 320. Un po' di pubblicità occulta su Radio Default. I'm not afraid. Ed eccoci di nuovo sui microfoni, sulle onde, sulle frequenze cibernetiche di Radio Default. Mentre gli americani ci stanno boicottando il collegamento telefonico con i compagni del Nomuos, vogliamo fare una dedica a un grande scomparso, al grande Enzo Iannacci, e quindi ho visto un re. Tutti in piedi e con la mano sul cuore. Ho visto un re. Se la discuse? Ho visto un re. Ah, beh, sì, beh, un re che

sta la salute, mi parte scarpe nuove e te poi gira tutto il mondo. Ma se tu fanno girare. E fa la vita meno amara, me so comprare, che mentre il sole scende muore. A prima sera canto e canta perché mi sento un friccico nel cuore, canto per sognare perché nel petto mi ce naschi un fiore, fiore dell'illa che mi riporti verso il primo amore che sospirava le canzoni. Che spiace, ma mi veri quinta, dove amici che le randa fa il bagno. Allora, abbiamo provato ripetutamente a sentire Giovanna, purtroppo il telefono non le prende, molto probabilmente è causato dalla vicinanza appunto alla base militare. Ricordiamoci appunto che le onde elettromagnetiche sono tantissime e fortissime, hanno un impatto ambientale sulla salute dei cittadini altissimo, e quindi crediamo che sia quello il problema appunto che non ci permette di metterci in comunicazione. Comunque tenteremo e ritenteremo anche dopo, così da avere appunto aggiornamenti e così da farci raccontare anche finito il corteo, magari anche più tardi, come il corteo è andato e che cosa sta accadendo a Niscemi. De per lui l'aveva vista passare bianca e rossa che pareva il tricolore, ma per lui lei sta bombe da parlare, e il portava in scatole di lei, e il parlava per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, e il portava in scatole di lei, e il aveva due città l'era il prima me la via, perché l'era un barbù. Un bel dì, vicino a che porti occhi, che arriva una macchina, che è giovane, che domanda, oi, mammi, sei a lui, sto per piacere la strada per dare la porta a Forlanini? Non so per dare la porta a Forlanini, signore, sono mai stato io per la porta a Forlanini, scusi. La strada per andare di Toscano, almeno la conosce? Sì, Toscano è il sud, adesso! Nessuno è il mio scalo, compagno mio è il mio scalo! Mi capisci una macchina! È bella questa macchina, sono stessa la macchina, mio signore, signore! Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo l'uomo nero, chiamo il papà o ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per il buio senza paura. Ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va. Non c'è via di uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura. giorno di qualunque settimana, ed un bel giorno di qualunque settimana. Battono alla porta, battono alla porta. È un telegramma, lei ti sta chiamando. È un telegramma, lei ti sta chiamando. Per uno viene presto, per l'altro tardi. Comunque presto, tardi, tranquilla e sicura. Viene senza avviso, viene ti cattura. Viene ti cattura, viene ti cattura. Ma basta per la morte, senza paura. Ma basta per la morte, senza paura. Ma basta per la morte, senza paura. Ma basta per il buio, senza paura. Ma basta per l'amore, senza paura. Ma per la tua via, senza paura. E ritorna a Radio Kebab, Our Man from Odessa, Baghdad. للهجرة الموافق للثاني والعشرين من كانون الأول عام 2001 للميلاد للميلاد للميلاد. E rieccoci, sfumiamo Baghdad, rieccoci su Radio Default, questo è Ops Connecting Fight, la trasmissione di aggiornamento sulle lotte dei lavoratori e le lotte contro la devastazione dei territori. E abbiamo avuto un po' di problemi tecnici per i contatti dal corteo, però leggiamo gli aggiornamenti invece che ci vengono pubblicati da Citizen, la nuova generazione di news made in Catania. Ricordiamo appunto corteo non muos, installazione radar militare che vogliono costruire in una base americana a Niscemi e diciamo abbiamo tre aggiornamenti. Alle 16.30 la manifestazione prosegue pacifica e senza intoppi e la testa del corteo è sempre più vicina alla destinazione. Secondo la polizia presente sul posto il numero di partecipanti si attesta intorno ai 10.000 come da previsioni iniziali. Alle 16.40 invece la testa del corteo, che era guidato dalle mamme del comitato Non Muos, cioè quelle mamme che si sono unite contro la repressione dei loro figli attivisti, Quindi il corteo guidato dalle mamme non muos e dai bambini si muove in direzione dell'ingresso principale della base militare statunitense. Nel frattempo i manifestanti al presidio cantano «Le antenne cadranno giù» sulle note della sigla del famoso cartone animato Popeye the Sailor Man, Arsecolo Braccio di Ferro. Alle 16.45 invece, davanti all'area militare in contrada Ulmo a Niscemi, dove ormai è giunta la testa del grande gruppo in marcia, un manifestante urla «A risico giocamo?» in direzione di alcuni poliziotti all'interno della base. Lungo il perimetro si sta muovendo anche il centro del corteo. Quindi, insomma, manifestazione che a quanto pare è riuscita, grandi numeri confermati anche dalla polizia, che in genere è avara di manica stretta quando si tratta di contare chi va a protestare per la dignità, per la propria dignità e per la propria salute contro gli interessi degli speculatori. E noi proveremo di nuovo a ricontattare i compagni giù dal corteo. Rimanete su Radio. Got him. Wind, stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica. E grandi problemi tecnici ancora su Radio Default o pubblicità occulta? Chi ci finanzia? Questo è l'interrogativo della giornata. E stiamo riprovando a entrare in contatto con i compagni non muos. Pronto, Giovanna, ci senti? No, io non sento niente. E niente, ancora. Proviamo a risentire. Wind, stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria. E niente, anche quest'ultimo tentativo è andato a vuoto. Problemi tecnici, grande inesperienza su Radio Default, ma anche grande sincerità, e questo è il bello della diretta.